da bere ancora un bicchiere di Francia corta. Che ho da mettergli alla porta, un'altra storia andata storta. Stavolta l'amata è morta, sepolta e dannata. Brindo a momenti piangenti come salici in calici dannata. Mica con uva anacquata, bacco. Guida tu questo insano caduto per mano di femmina. Insisto, già che il meteo ha previsto banchi di nebbia sulla mia retina. Qui si brinda e non si lesina, anche se si dà un'immagine pessima di se stessi. Dopo l'ennesima sorsata assimilata per te. Ubriaca la mia vista, la la la. Ubriaco sono io. Ubriaca la mia vista, la la la. Ubriaco sono io. Tanto è vero? Gente che apprezza e gente che no, perché avvezza a tirare di scherno. Nella rete di un teleschermo, appeso alla parete come il Padre Eterno. In questo inferno c'è chi tenta di riunire la famiglia e invece si mette in bella vista vestita da uno stilista nel programma in cui ci si accapiglia. Garçon, altra bottiglia, che sta roba piglia d'acido. Ora vedo sulla mia epidermi da vermi che non vedrei se fossi lucida. Politici che giocano agli attori, ragazzi che per lavoro c'hanno i genitori. Uè, sono diventati tutti pazzi, li ha convinti che saranno tutti prenditori. Ah! Ubriaca la mia vista, la la la. Ubriaco sono io. Ubriaca la mia vista, la la la. Ubriaco sono io. Giulio è suadente, un fiero menzognero che sa dire solo ciò che vuole sentire la gente. Io non lo tocco il suo saio, sono un socio sordo pifferaio. Oltretutto non sono più sveglio e poi più tracanno, coppe più mi inguaio. Il vino fa brutti scherzi ma lo bevo per conto terzi e subisco. È già mattina e la puntina è vicina alla fine del disco. Me ne infischio un altro fiasco e mi addormenterò tranquillo. E al mio risveglio so che non vedrò ciò che ho veduto essendo brillo per te.